Vi saluto tutti molto caramente, sono contenta di vedere anche dei volti nuovi, perché la biblioteca così si fa conoscere ed è un servizio pubblico che è vostro, ecco. Fondamentalmente noi lavoriamo e siamo a vostra disposizione. Saluto con grande piacere Giuliano Vettorato, che è qui con noi, i nostri ospiti, Marco Veronese, che è l'autore di questa bella raccolta di poesie che stasera ci presenterà, e ringrazio anche Elio Cirimbelli per essersi prestato ad accompagnare Marco Veronese in questa presentazione pubblica questa sera qui presso il Trevi Lab e per la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. Siamo tremendi, ve lo dico subito, per cui se decidete di seguirci sappiate che non avrete più tregua, perché facciamo un sacco di cose. Allora, il prossimo appuntamento sarà il 5 marzo alle 17:30 in questa sala, dove presenteremo un libro, Sono io che vi chiamo, dedicato e accompagnato anche musicalmente da un tenore che si chiama Roberto Catania, da una pianista che si chiama Elisabetta Fusillo, e saranno con noi Liviana Berardini, Jael Berr e Giampiero Montanti. Libro dedicato e serata dedicata alle donne, visto che ci avviciniamo alla data dell'8 marzo. Il 12 marzo invece avremo la mattina la presentazione di una rassegna stampa, c'è un appuntamento periodico che facciamo con un nostro affezionato volontario, ecco, Armelini Fernando, che fa la rassegna stampa insieme ad altre persone, quindi si leggono dei giornali e in questo caso leggeranno i quotidiani e commenteranno all'interno del gruppo Facciamo Notizia, commenteranno come si sta evolvendo nella cronaca il problema dell'intelligenza artificiale. Però anche la sera c'è un appuntamento, Alessia, il 12 marzo. Ah, ok. E cosa abbiamo? Ah, perfetto, ce l'ho. Ce l'ho qua, ecco. Invece mercoledì 6 abbiamo un gruppo di lettura che si trova sempre in biblioteca e verrà letto il libro di Carmine Abate, Il cercatore di luce. Ma soprattutto abbiamo intenzione di far partire quanto prima, nel mese di aprile, un corso di podcaster per fare i podcast, e perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti nel raccogliere la memoria della nostra comunità in Alto Adige in maniera nuova, per narrare, raccontare le vite nostre e degli altri, insomma raccontare la storia in maniera diversa e anche con degli strumenti diversi. Per chi fosse interessato può fare riferimento alla biblioteca oppure all'UPAD, che è il nostro partner in questa nuova avventura. Bene, questa è una prima tranche, abbiamo 650 presentazioni di libri da ascoltare sul sito, quindi se avete voglia di sbirciare quello che abbiamo fatto e ascoltare soprattutto quello che abbiamo fatto in questi 22 anni dal sito della nostra biblioteca, lo trovate, e da domani ci sarà anche quello di Marco Veronese. Ecco, quindi noi registriamo tutte queste presentazioni e le mettiamo a disposizione, anche perché abbiamo visto che vengono riascoltate, ecco, dal pubblico e anche da chi non ha potuto magari partecipare. Ecco, noi siamo qua in via Marconi 2, e dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, e siamo sempre molto contenti di conoscere persone nuove, di offrire i nostri servizi a un pubblico che ha piacere di leggere, ma anche di incontrarsi, come diceva il nostro ex assessore. È bello trovarsi, è bello incontrarsi e fare anche socialità. Lascio la parola ad Elio Cirimbelli e poi so che ci sarà un momento anche con Giuliano, oppure facciamo subito, dai, facciamolo subito, va bene. Grazie e grazie a voi. Allora, prima vi saluto intanto, mi chiamo Giuliano Vettorato, cittadino altoatesino, e sono molto felice di esserlo. Detto questo, volevo dire che non è che la Biblioteca Claudio Augusta sono tremendi, sono proprio una setta, cioè se entrate non vi mollano, No, sto scherzando. E questo rientra negli obiettivi che abbiamo condiviso con Valeria, dirigente appunto responsabile della Biblioteca Claudio Augusta, per trasformare un po' le biblioteche. Mi faccio un attimo una premessa, perché era doveroso, perché Valeria, come tutti i suoi colleghi, stanno lavorando veramente tanto. La biblioteca non è un bene, soprattutto, grazie Marco per avermelo sottolineato, La biblioteca non è un posto silenzioso dove si va a leggere, eccetera, è anche un posto silenzioso, ma un posto dove si può fare musica, un posto dove ci si può trovare, un posto dove, l'abbiamo detto scherzando, dove delle persone possono venire anche a giocare a carte e poi un libro lo portano a casa. Questo era l'obiettivo e quindi Valeria, con tutti gli eventi che sta organizzando, che ha organizzato in questi cinque anni passati, nei prossimi 5 anni, è una persona come tutte le persone della ripartizione cultura italiana si impegnano. Io questa sera perché sono qui? Perché questo evento era organizzato qualche mese fa, nella quale io avevo anche ovviamente un ruolo, ma sono qui come ex vicepresidente della provincia, perché per ovvi motivi ci siamo un po' spostati come tempistiche, in accordo ovviamente con l'attuale vicepresidente Marco Galateo, che mi ha detto di portarvi i vostri saluti, ma stasera purtroppo era impegnato. Con Marco abbiamo un rapporto ottimo, gli ho fatto un passaggio di consegne, la strategia a mio avviso è quella giusta e i risultati li porterà, quindi andiamo avanti con la continuità, perché la cultura, l'ha detto Valeria, è socialità. L'abbiamo visto in pandemia, eravamo tutti isolati e come facevamo a stanarci da casa? Anche con la cultura ci siamo trovati, ritrovati, ci incontriamo. Quindi questa sera io volevo dare un premio particolare a nome della provincia autonoma di Bolzano, sancito 2 mesi fa, come detto, però per dovere di cronaca, a Marco Veronese. Perché? Perché noi sappiamo benissimo, l'abbiamo visto, che si legge poco, si scrive ancora meno. E quindi ci sono delle persone che decidono di raccontare o anche raccontarsi e quindi si impegnano a scrivere. E quindi come scrittori vanno valorizzati. Ho detto prima che la cultura è socialità. In questo caso è anche sociale. E quindi mi sono permesso, a nome della provincia autonoma di Bolzano, di fare questa targa a Marco, che consegnerei. Il testo si legge poco perché è ovviamente un cristallo, è per l'impegno culturale e sociale. Quindi lo alzi tu. A Marco e un abbraccio e chiedo ovviamente di sponsorizzare il più possibile, di valorizzare persone come Marco, che so che hai parlato con l'assessore Galateo in questi minuti fa, eccetera, perché i racconti che fa Marco possono, scusami Elio per le spalle, possono essere sicuramente d'aiuto. Non c'è una fascia d'età, non si è né troppo piccoli né troppo anziani per ascoltare queste storie, che sono storie vere e che ci possono far cambiare. Io mi devo scusare, ma purtroppo per un impegno lavorativo dovrò scappare per una videoconferenza. Ci tenevo ad esserci proprio per valorizzare persone brave che si raccontano, che hanno avuto il coraggio di raccontarsi, che si mettono in gioco per la nostra società. Grazie ancora, buona serata. Mi chiamo Elio Cirimbelli, sono un mediatore familiare. Brevemente dico che circa 40 anni fa io ho fondato un centro che si occupa e si occupava di persone separate e divorziate, però prima di fondare questo centro mi sono occupato di alcolismo. E lo dico perché il primo amore non si scorda mai, perciò nutro molta simpatia per persone come te, per persone che hanno vissuto questa esperienza, perché ho notato una cosa che normalmente non si nota. Non si nota perché siamo sempre portati al giudizio, siamo portati a giudicare. Ma quello lì è così, quella là è così. Ecco, invece, se si imparasse ad ascoltare, ma ascoltare vuol dire non sentire, vuol dire far funzionare 2 orecchie e far funzionare la nostra anche spiritualità interiore, perché se siamo stati creati o siamo nati con 2 orecchie e una sola bocca, forse qualcosa vorrà dire. Stiamo attraversando un momento difficilissimo, viviamo in una società dove c'è spaesamento, c'è disorientamento, sconforto, dove proprio queste situazioni ti portano all'aggressività, e stiamo attraversando una società dove prevale il Dio io, prevale una sorta di egolatria siamo tutti portati, tutti, insomma, molti siamo portati dai, ad ascoltare il nostro ego anziché ascoltare gli altri. Era doveroso questo preambolo per potersi dire: ma cosa ci fa lui lì, no? Che senso ha? E allora gli amici sanno che io settimanalmente, da circa 40 anni, il fine settimana invio degli aforismi, invio dei messaggi, insomma, vabbè, che non richiedono una risposta. Partono, chi vuol rispondere risponde, perché non ha importanza. E perciò sono ricco di appunti, libretti, libricini, filosofi, vabbè, c'è un po' di tutto. E pensando al titolo che Marco ha dato a questo libro, che parla di destino, amaro destino, mi è venuto in mente un lavoro che io presentai in un'associazione culturale tanti anni fa che parlava proprio del destino. Però guardando un po' di cose in giro, niente, mi è balzato all'occhio questo aforisma di Jean de La Fontaine che dice: spesso si incontra il proprio destino nella vita che si era presa per evitarlo. Poi chi vuole intendere intenda, chi non, ecco. Io e Marco non ci siamo accordati di nulla, per di cosa dire, cosa non dire, perché a me piace, e credo sia anche giusto, insomma, evitare cose già predisposte. Io mi sento di dire che ho letto con interesse questo libro, l'ho letto, l'ho riletto come mia abitudine, mi sottolineo delle cose, e ci sono due cosine, insomma, che mi sono rimaste impresse, e lì poi, senza togliere troppo spazio a Marco, perché la serata è sua e non è certamente del moderatore. E posso dire che Marco non lo conoscevo, forse di vista, e la cosa che mi ha colpito è stata questa: per me Marco è veramente un uomo libero. E cosa vuol dire essere uomini liberi? Uomini liberi vuol dire entrare, dico tre cose sulla libertà. Non si può essere liberi senza la consapevolezza, senza la creatività e senza la responsabilità. Al primo posto, per chi ha passato una parte della propria vita, come si può dire, vittima, non lo sappiamo, delle dipendenze, la cosa più difficile, Marco lo sa, è quella di entrare nella consapevolezza. È la cosa difficile. Io mi ricordo che in via eccezionale, io non ero un alcolista, mi occupavo dei gruppi, però insomma sono nate cose molto interessanti. Io ero invitato anche nel gruppo degli alcolisti anonimi, dove chi non è alcolista non potrebbe entrare, ma la prima cosa, e Marco lo sa, e forse voi avete visto o letto, visti dai film o sentito, no? Perché gli alcolisti anonimi nascono negli Stati Uniti, la prima cosa quando in un gruppo le persone si alzano in piedi ad una, si presentano e dicono: io sono Marco e sono un alcolista. Senza questa consapevolezza difficilmente non se ne esce. Ok, allora io vi leggerei una cosina che è molto breve, che c'è in questo libro, che è quella che mi ha stuzzicato di più e mi ha incuriosito di più, e poi lasciamoci stupire, insomma, da quello che dirà Marco. È un titolo molto forte e qui forse capirete perché ho iniziato dicendo che Marco è un uomo libero. Il titolo è molto forte: Poveri vermi. Ormai entrato nel vortice che porta alla morte, la testa ormai imbavagliata alla sola ricerca di una bottiglia a cui sostenermi, ormai in lotta da 20 anni contro il diavolo, cercavo un amico, un amore, cercavo un aiuto. Ad uno ricordo bene, volsero le spalle e come vermi schifosi si nascosero tra la terra del parco. Ingiurie, inganni, falsità. Lì circondavano come un branco di lupi circonda la sua preda prediletta. Ed io senza ormai più forza combattevo come un guerriero contro di loro, contro il mio demone alcolico. Non so da dove mi uscisse quella immane forza e a distanza di molto tempo, molta sofferenza e sacrificio, ora a testa alta li guardo. Poveri esseri così poveri di orgoglio. Poveri esseri così poveri di orgoglio. Così poveri di amore. Abbassano la testa al mio passaggio. Lo sputo in faccia sarebbe il giusto saluto. Dall'alto del mio umile piedistallo vi guardo e vi concedo perdono, perché sono un uomo. Sono un uomo vivo comunque, nella mia solitudine oscura, ma vivo. E allora partiamo da qui. Grazie Elio. Ah, devo parlare con questo? No, è giusto? Sì. La prima volta. No, siamo partiti, ho voluto onestamente partire proprio con questa... Funziona? Allora, ho voluto partire proprio con questa poesia perché racchiude un po' la sintesi un po' di quello che succede. Scusa le spalle, Elio, ma io devo camminare. E racchiude un po' l'inizio e il continuo dell'alcolismo. Vivere nell'alcoldipendenza è... come vivere una strada parallela rispetto agli altri. Tu viaggi nella tua strada, nella tua direzione e tutti gli altri si allontanano e attraversano questa ipotetica strada. Succede esattamente così. Amici, amori, affetti più cari, tendono a lasciarti solo e vivere nella solitudine non è una grande idea. Questa solitudine che si viene a creare vi fa vivere con sensi di colpa, vi fa vivere male, quindi amplifica ancora di più La patologia che voi avete, perché è una vera e propria patologia, no? È riconosciuta come malattia dall'80, quindi se l'hanno fatta malattia un motivo ci sarà. Colpisce sempre più giovani, passiamo da un estremo all'altro, no? Colpisce sempre più giovani. Il modo di bere è cambiato. Se prima c'era la cultura, il bicchiere di vino, il nonno ti dà il bicchiere di vino, ma dai, prova. Adesso la tipologia di bevande è cambiata. È diventato un mix, è un cocktail di tante sostanze che soprattutto vengono mescolate spesso e volentieri con droghe. Quindi è un altro tipo di alcolismo. È un alcolismo che poi ti brucia in fretta. Quello di una volta ti bruciava lentamente. Questo ti brucia in fretta. Devo prendere il programma perché mi stavo già perdendo. Sulla prevenzione però vorrei tornarci un attimo dopo. Perché è un complesso ampio, ne abbiamo parlato proprio poco fa in provincia con il nuovo assessore Galateo e mi parlava di scuole dove vorrebbe introdurre anche qualche cosa di mio. Entrare nelle scuole, nelle istituzioni, in alcune istituzioni. È un muro. Non vi ci fanno entrare. Invece la prevenzione andrebbe fatta a partire da età, tenera età, perché in questo momento l'avvicinamento al primo bicchiere in Alto Adige, ma più o meno i dati sono gli stessi in tutte le regioni d'Italia, è 9 anni e mezzo, 10 anni. No? Quindi la dice lunga sull'età esatta dove è giusto iniziare a fare prevenzioni. Ma succede così. Succede che la quinta elementare ti risponde è troppo presto, la terza media ti risponde è troppo tardi. Ditemi voi quando la facciamo. Succede esattamente così, eh? Avete dei muri invalicabili. Ti scontri con le persone, però bisogna continuare a lottare, no? Bisogna sfondarli questi muri. Prima o poi li sfonderemo, questi muri. Perché ho scritto un libro? Allora, io ho scritto un libro principalmente per sensibilizzare le persone su questo argomento. È un argomento di cui si parla estremamente poco, a volte risulta come un tabù, si tende a mantenere tutto tra le mura domestiche, si nascondono i fatti e questo non fa che peggiorare le cose. Bisognerebbe parlarne di più, cosa difficile. Io ho voluto farlo esponendomi in prima persona, non è stato assolutamente per niente facile. Dopo aver smesso di bere, grazie alla forza mia, ma grazie anche all'appoggio di centri terapeutici, in particolare di Hans, che io ringrazio davvero di cuore. Cosa stavo dicendo? Iniziamo. Sono un po' emozionato, eh? No, grazie all'aiuto di centri terapeutici, però mi sono sempre perso quello che dovevo dire dopo. Dove vado? Ah, il perché ho scritto il libro, ecco. Per sensibilizzare, sono un po' emozionato, devo dire la verità. Per sensibilizzare su questo argomento, per parlarne di più, e l'ho scritto anche un po' da cattivello, no? Volevo dare delle risposte, perché poi ti viene naturale questo, a una cerchia di persone che hanno voltato le spalle, no? Ora tu sei uscito dall'alcol dipendenza, io dopo essere uscito sono stato un anno senza fare nulla, a parte il lavoro chiaramente, no? Ho solo osservato, mi sono limitato ad osservare il comportamento delle persone. C'era cambiato nei miei confronti, ma c'era ancora una dose di scetticismo che raggiungeva dei livelli altissimi. Cioè, sì, ti ascoltavano, ma però lui era. È il famoso marchio, no? Che ti porti dietro ancora adesso, sono passati quasi 6 anni e mezzo, sì, ma te lo porti ancora dietro. C'è ancora chi riesce ad avere in invidia, e questo stasera lo diciamo, no? Invidia per quello che sto facendo. Credetemi. Questo vi fa crescere dentro di voi una rabbia che è immensa, ma poi ti godi anche un po', no? Qualche rivincita te la prendi, assolutamente. E queste rivincite ti danno la forza per andare avanti. Questa sera è una serata particolare, per quello sono un po' più emozionato del solito. Intanto ringrazio la sindaca di Bronzolo che è venuta a trovarci, perché il 28 febbraio 2023 io ho fatto la prima serata a Bronzolo. Pensavo di non trovare un cane, dico, ci saranno 2-3 persone ad ascoltarmi, invece è stata una serata dove era pieno ed è stata una serata veramente intensa. Abbiamo provato come esperimento a fare il bis a Bronzolo, lo abbiamo fatto perché a me piacciono anche un po' le cose strane, no? In un bar trattoria, e abbiamo rifatto il pieno. Quindi vuol dire che la gente ha bisogno di sentire, di parlare di questo argomento. Se tu lo mantieni nascosto tra le mura domestiche, rischi poi di arrivare alle violenze. Prima o poi, se c'è l'alcolista magari un po' più aggressivo dell'altro, arrivi alle violenze. E poi sono problemi. No? O a cosa si arriva? Poi leggo qualcosa anche. A cosa si arriva nell'ambiente familiare? Si arriva vivere con un alcol dipendente non è assolutamente facile, questo sono il primo ad ammetterlo. Però la persona che ti sta a fianco dovrebbe fare di tutto per darti una mano. L'alcol dipendente non ti chiederà mai aiuto, non esiste. Se lo chiede, lo chiede a un centro terapeutico, ma come lo chiede? A volte proprio perché ne ha bisogno, magari gli hanno ritirato la patente, no? E per cose più o meno banali. Invece nell'ambiente familiare cosa succede? Succede che marito, attenzione, questo discorso vale sia per le donne che per gli uomini, eh? La situazione è anche assolutamente inversa. E succede che si arriva alla soluzione più semplice. La soluzione più semplice in un ambiente familiare è, tu che sei esperto, divorziamo. Divorziamo. Cosa succede? Succede che nella persona che non è dipendente, lei o lui si liberano di un pensiero. Boh, c'è più, cavoli suoi. Adesso si arrangia. Nell'alcol dipendente, si viene invece ad amplificare la problematica. Quindi io vi sto cercando di dire delle cose con gli occhi dell'alcol dipendente. Si amplifica in una maniera tremenda, fino ad arrivare al punto che tu non hai nemmeno più il controllo di te stesso. Quel minimo controllo che avevi prima, perché comunque c'era una figura in casa, è sparita. Quindi poi tu, per riprenderti in mano almeno un pizzichino della tua vita, ce ne metti di tempo. Ce ne metti di tempo, oppure arrivi a fare la scelta più sbagliata di tutte. Oddio, a te in quel momento non interessa tanto come scelta, no? Quella di lasciarsi andare o di continuare a vivere. Io ci sono arrivato molto vicino e è un... Grazie. Venticinque anni che mi segue, è la mia psicoterapeuta. Ragazzi, ci vuole pazienza a seguirmi 25 anni, anche io a seguire lei, però. Adesso va bene. Se tu, Elio, vuoi dire qualcosa anche, altrimenti io leggo una poesia. Guarda, facciamo così, se siete d'accordo, lo lasciamo respirare, no? Che respiri, e leggo io una poesia, una delle quali che mi ha... no? Prego, benissimo. Intorno a tardi, perché non c'è un'età effettiva dove tu... ti scatta questa cosa, no? Che poi, attenzione, ecco, volevo, bella domanda questa, perché volevo partire un attimo da un chiarimento. L'alcol dipendenza non è che... allora, tutto quello a livello medico, ti prego di farmi un cenno, se topo che... va tanto il carcere qui vicino, al limite vado a piedi, parte tutto già da un gene che tutti noi abbiamo. Questo gene in determinate persone viene sollecitato e riescono a gestirlo col bicchiere di vino a tavola, con la birra tra amici, e riescono a gestirlo. Invece nell'alcol, quello più suscettibile a questo gene, lo stuzzica, come bevande alcoliche naturalmente, e parte come un missile. Questo può succedere a 15 anni, questo può succedere a 25, come a me è successo intorno a 23, 24, adesso non ricordo. Quindi è abbastanza tardi. Non c'è un'età ben precisa di partenza. E non dipende parzialmente anche da quello che si dice spesso, no? Le compagnie. E no, cioè se uno ha la forza di gestire questa cosa, la gestisce anche se esce con 30.000 persone che bevono in quel momento. E è una forza scatenante che all'inizio diventa quasi... all'inizio tu non ti accorgi, no? Perché tu inizi a bere, il giorno dopo bevi ancora di più. Il giorno dopo ancora di più, però lì cominci a dare le colpe a: ma ho avuto una giornata difficoltosa al lavoro, ho litigato con mia moglie, la sindaca mi ha fatto arrabbiare. No, capite? No, è piaciuto, e come anche, e ti porta, ti spinge a bere sempre di più, finché una mattina non ti svegli, dove il primo impulso che hai, e lì in quel momento l'alcol prende possesso del tuo cervelletto, il primo impulso che hai è quello di andare a bere. Non esiste caffè, colazione, no, ti alzi e il tuo impulso è quello di bere, tremando. Principio di crisi d'astinenza. Dopo vi dirò, adesso lascio parlare un secondo, prendo il fiato, facciamo parlare un attimo Elio, parliamo dopo un attimo delle crisi di astinenza. Voglio lanciare, posso solo, perché io mi dimentico le cose, davvero sono fatto così, volevo lanciare un messaggio alle persone che in questo momento sono in sala e che stanno nello stesso luogo dove stavo io qualche annetto fa, 6 anni e mezzo fa. Alcuni pazienti, no? Non mollate mai, non mollate mai. Perché nel momento in cui voi meno ve lo aspettate, credetemi, avevo un piede e mezzo nella fossa, quello è il momento che vi potrebbe far scattare una molla. Avete a disposizione un centro terapeutico professionale, questo ve lo posso garantire, approfittatene proprio, approfittatene di questo centro. e di chi fa terapia fa terapia bene, vi segue, vi sta vicino. Siamo fortunati ad avere, è chiaro, i posti letto non bastano mai perché sono sempre di più le richieste, però avete in Alto Adige, possiamo godere di centri terapeutici o di strutture, meglio ancora di strutture che veramente danno una grossa mano, perché non esiste solo quella qui vicino, abbiamo insomma Rodengo, abbiamo Mera, ce ne sono tante. Adesso non pubblicizziamo i centri terapeutici, ce ne sono tante, basta, mi fermo, faccio parlare meglio. Il mio arduo compito è quello di moderare, no? Perciò un consiglio che darei, se permettete, magari scrivetevi le domande e ci dedichiamo, no? Alla fine le varie domande, altrimenti si perde il filo, se siete d'accordo naturalmente, io non voglio imporre nulla. Mi riallaccio brevemente, prima di leggere questa altra poesia bellissima, a quanto diceva Marco, e mi scuso il gioco di parole, mi riallaccio alle mie, tra virgolette, competenze di vissuto. Di alcolismo mi sono occupato circa 6-7 anni, insomma. E è tipico di chi ha una dipendenza, e qui abbiamo un'esperta, di chi ha una dipendenza dire: ma io ce la faccio, io smetto quando voglio, no? È un classico, no? Ecco perché prima parlavo a chi magari qui presente sta vivendo questa situazione di consapevolezza, no? Bisogna entrare nella consapevolezza di dire: io sono un alcolista, non è, no? È difficile. L'altra tendenza che ha chi ha una patologia di dipendenza è sempre quella di incolpare gli altri. È sempre colpa degli altri. Perché? Perché è un alibi. Io lo vedo anche nelle separazioni alla fine, no? Quando ci si separa è molto più comodo crearsi l'alibi, no? È colpa sua, no? Io, no? Perché? Perché qual è l'alibi migliore per non guardarsi dentro? È quello di guardare gli altri. Chiusa questa piccola parentesi. Allora, l'altra poesia che mi ha colpito, e qui viene fuori, secondo me, una cosa meravigliosa, che è quella che noi tutti possiamo avere, perché siamo uomini. Tanto è vero che Marco l'ha intitolata Fragilità. Trovatemi un uomo, una donna non fragile, ma sarebbe impossibile, inumano. Tu, uomo fragile, vedi il mondo da un'altra prospettiva. Tu, uomo fragile, fai uso del tuo cuore per affrontare la tua vita. Tu che piangi mentre gli altri ridono. Tu che ridi mentre gli altri piangono. Tu che vivi la tua solitudine con ferocia. Tu che dove tutti scappano resti lì presente, ti domandi perché. Tu che non distogli gli occhi dallo sguardo di un senza tetto, tu che leggi negli occhi persi di un alcolizzato, occhi persi di un alcolizzato, non esterni sentenze già vissute, non fuggi, ti avvicini a loro perché per te è normale. Non vivi di stupidi stereotipi imposti dalla società. Tu agisci con il cuore. Tu che ad un tango argentino preferisci la carezza di un cane. Questa è stupenda. Tu che ad un tango argentino preferisci la carezza di un cane. Laddove tutti impattano nell'indifferenza emergi, non per compassione. Non per generosità, ma perché dentro di te, ecco, dentro di te, vi è una lettura più profonda dello Stato. Tu piangi, certo, ma sei tu che al bivio della strada sarai guidato da una forza superiore che si chiama, bellissimo, che si chiama, pensiamo, dai, cos'è? Il cuore. Poi possiamo chiamarla, adesso io non voglio interpretare, ma io, a me piacerebbe chiamarla spiritualità, nel senso che è molto ampio, no? Spiritualità la possiamo tradurre in qualcuno, coscienza, cuore, amore, insomma, come la vogliamo, no? Però guardate che, vabbè, ci sarebbe da dire molto sul cuore, ci sono delle letture interessantissime. Se noi pensiamo che quanto dista il cuore dalla mente, 20 centimetri, 30, no? Ecco, invece siamo a volte più portati, ma vabbè, chiuso parentesi. Tu piangi, certo, ma sei tu che al bivio della strada sarai guidato da una forza superiore che si chiama cuore. Sia giusto o sbagliata la tua scelta, non farà la differenza, in ogni caso resterai fragile. È bello avere la consapevolezza di rimanere fragili, è bello. Sarebbe assai triste pensare di essere arrivati sempre, di non essere fragili, perché la vita è così, la vita, io, per me, secondo me, anche per le mie letture, la vita è un laboratorio, è tutto un continuo, no? È un continuo fallire, rialzarsi, ricominciare, vabbè. Te ne tornerai a casa consapevole di quello che hai fatto, terrai il tuo viso fra le mani piangendo, sarai però uomo. Ecco, questo secondo me, Marco, è un capolavoro, no? Perché viene fuori, no? L'essere uomini, donne, essere persone con le nostre fatiche, con le nostre difficoltà, con le nostre sconfitte, con le nostre vittorie. Ecco. E mi fermo, insomma, rubo il posto. No, rubo. Però, insomma, mi hai... Mi hai talmente stuzzicato in questo che non potevo, non... Vabbè. Allora, abbiamo mezz'ora per noi e poi lasciamo spazio quasi un'ora. No, sono le 6, fino alle 19 magari ci parliamo e poi se qualcuno vuole fare delle domande magari, se siete d'accordo. No, se ci sono domande fatele volentieri finché sono qua, perché poi... ho da fare. magari adesso ne leggo una io. Adesso ne leggiamo una un po'. Adesso leggiamo a lei, per la gioia. Questa poesia ha di fondo una storia. Chiaramente ritorno a parlare fortemente della facilità con cui si fanno delle scelte nella vita, cioè di lasciare solo il proprio compagno o la propria compagna. Questa poesia è stata scritta in due versioni, a distanza di mezz'ora una dall'altra. La prima versione di questa poesia era improponibile, cioè in nessun sito di, io scrivo in un sito di poesie, e in nessun sito sarebbe mai passata una poesia del genere, perché era piena di insulti, era piena di, era uno sfogo mio personale. Qui parliamo veramente appena successo il divorzio, al che io, dopo aver scritto questa sembrava Kiev, no, e ho pianto per mezz'ora sul foglio bianco, giuro, ho pianto per mezz'ora su un foglio bianco e poi è uscita questa senza fare assolutamente nessuna fatica, è venuta fuori, boh, così, di getto. Di lei, a lei si chiama, di lei ricordo molto, serate passate fra amici, dove il suo sorriso illuminava la stanza. Cercavo il suo sguardo perché solo lì mi ritrovavo. Cercavo i suoi occhi perché solo lì trovavo il mio volto. Cercavo il suo profumo perché solo lì mi ubriacavo. Eravamo soliti camminare a lungo tra la neve, nel silenzio, in quei luoghi che sembravano dipinti. Non servivano parole, i cuori parlavano fra loro. Si entrava nel rifugio, quello col caminetto, e la legna ardeva. Ardeva come i nostri corpi. Adoravo toglierti i vestiti, lentamente, delicatamente, come un corpo di regina meritava. Ti scioglievo i capelli raccolti che andavano a coprire le tue spalle e ricordo la mia paura nel toccarti, così delicata la tua pelle, i tuoi seni così perfetti da lasciarmi senza fiato. Lunghi baci appassionati, intrecci di corpi, com'era magico. Ci addormentavamo così, spogli, riscaldati da quel caminetto. Non serviva a parlare perché era amore e l'amore non ha bisogno di parole. Questa mi è costata mezza costola. Va bene, aspetta. Mi sono perso. Succede? Succede. Sì, sì. Ti sei perso. Vai. Se leggessimo un giorno forse. Sai che non me la ricordo? Allora, io memorizzo tutto, credetemi, memorizzo tutto, le mie, Giorgia lo sa, insomma, le mie poesie, essendo state scritte, addirittura a lei è capitato una sera, in una, non mi ricordo che biblioteca era, perché ormai questa è la decima, ho aggiunto due frasi ad a lei e non me ne sono accorto. Talmente sono di getto che proprio non... Boh, brum, sono andato avanti con altre due frasi, tra l'altro carine anche, era da prendere appunti. Posso farti una domanda allora? Certo. Dove, mi scuserete della volgarità, faccio una marchetta al mio libro, insomma. Io ne ho scritti tre, l'ultimo si chiama Il Mediatore, pioniere dei conflitti familiari, no? E mi ricordo quando lo presentai la prima volta al Circolo Cittadino, che era il 18 aprile dell'anno scorso, un ragazzo si avvicinò, e qui arrivo alla domanda che farò a Marco, e mi disse: sa, mi sono commosso ascoltandola. E io ho detto: anch'io. E non mi nascondo, dietro nessuna falsa ipocrisia, mi lacrimavano gli occhi. E però questo ragazzo aggiunge: ma sa quando mi sono commosso? Dico: dimmi. Quando lei ha detto, e questa è la domanda che rivolgerò a questo punto a Marco, quando lei ha detto che le è costato più fatica leggerlo che scriverlo. E allora io giro questa domanda. È assolutamente vero, è assolutamente vero, perché quando l'ho scritto posso dire che non mi sono nemmeno accorto di averlo scritto, perché è uscito tutto talmente in maniera spontanea, però poi rileggerlo, o addirittura la cosa più che a me crea maggiore emozione è sentire le proprie poesie lette da un'altra persona. No, quello veramente è una cosa bellissima, è una sensazione, io ho i brividi ogni volta. E infatti domani sera io sarò all'anfiteatro di Via Cagliari, farò una breve apparizione, però la mia poesia, che è la poesia poi quella arrivata alla finalissima a Roma, verrà letta dalla mia amica Maria Pia, perché io non me la sento di leggerla, la leggerà lei. È una poesia che non vi leggo adesso perché entrerà nel prossimo libro, sennò perdiamo tutto, insomma. Allora va bene. Cerchiamo di leggere. Leggiamo quella. Cerchiamo di scusatemi se posso star seduto. Ho problemi, insomma, le gambe. Un giorno, puntini puntini, forse. Un giorno forse dalla mia penna usciranno parole mai dette. Si appoggeranno su un foglio di pergamena come per magia. Come per magia, lo ripeto io, diventeranno vita. Sul mio foglio caleranno lacrime che cospargeranno le mie parole. Un giorno forse scriverò del mio amore. Un amore vissuto, goduto, perduto. Scriverò l'infinito di sogni, desideri, albe non viste. Creeranno una melodia per solo pianoforte. La mano non si fermerà mai. Troppo il tempo in cui ha taciuto. Valicheranno barricate da me create e penetreranno nel profondo dei miei pensieri. Troveranno dolori e barlumi di speranza fino a quando la magia non sarà completata. Un giorno, forse. Qui merita un applauso. Magari quando ha scritto questa poesia non immaginava di pubblicare il libro, no? Perché insomma, un giorno forse, non sappiamo, no? Cosa accade domani, no? Però... sì, il domani è sempre un'incognita. ora, per tornare un attimo, ma proprio un attimo, allora, nell'alcoldipendenza sì, quando si ha l'alcoldipendenza ognuno sfoga un po' alla propria maniera, no? C'è chi si arrabbia, c'è chi... però le lacrime hanno un'importanza incredibile. Scusate. Ritornano alla base. È stato un piacere averli qua. Le lacrime. Le lacrime si spendono a centinaia durante la vostra patologia, la vostra indifferenza, sì. L'indifferenza, a me viene sempre questa parola, no? L'indifferenza che provate durante la vostra patologia è micidiale. Ricevete insulti, ricevete percepite affermazioni pesanti, molto, molto pesanti, che vi segnano poi per sempre. La faccenda che leggeva prima lui, gli scudi te li crei di continuo. Prima li creavo per cercare di tamponare, purtroppo ero in difetto tutto sommato, no? Perché a livello lavorativo non pochi problemi, a livello sociale non pochi problemi, anzi, quindi tendi a costruirti questa determinata serie di scudi per proteggerti. Questi scudi poi vanno avanti anche dopo, perché tu ci sei talmente abituato che te li crei anche poi quando smetti. E tieni, cerchi di tenere lontane determinate fasce di persone che prima magari che vi hanno voltato le spalle, ecco. Li usi anche in amore, no? Perché gli scudi io li uso anche in amore. Perché venire da una separazione, 3 centri terapeutici, 25 anni di terapia, te li cresci scudi, cerchi di barricare la tua sicurezza, anche a livello sentimentale, soprattutto perché è molto fragile nei sentimenti. È difficile questa, eh? Ma sono scelta bene proprio, però credo che siano necessari, sì, credo che siano necessari per poter andare avanti. Ti posso aiutare un secondo? Certo, perché non posso entrare no, anche perché sono un po' in difficoltà. Prova a pensare, ecco, che forse si potrebbe usare anche un termine, no? Cioè, è giusto proteggersi. Certo. E questi scudi a me sono serviti proprio per proteggermi, no? A livello di sentimenti poi non ne parliamo, sembra meglio evitare questo argomento con me, perché ci abbiamo lavorato per non so quanto tempo con la mia terapeuta e credo che ormai io abbandono il discorso e vado avanti. Dove vi può portare l'alcolismo? Le alternative sono due. O vi scatta la scintilla e ne uscite, oppure sono tre le alternative. La seconda lasciarvi andare e morire, oppure ancora peggio, e questo ve lo posso garantire vissuto in prima persona nel letto d'ospedale, perché non c'era più posto nel reparto di gastro, mi hanno messo con quelli in attesa di trapianto di fegato, ed è quella di arrivare al punto di sperare nella morte di un'altra persona che abbia il tuo, chiaramente sia compatibile il tuo fegato. No, anche no. Io onestamente preferisco scegliere la strada della morte. 15 giorni, 3 persone, andate. Queste sono cose che ti segnano, ma nonostante tutto non sono servite a niente. Ho continuato ad andare avanti. Adesso ve ne leggo due di seguito. Poi una è Amaro Destino. Ah no, che la stanno registrando. Per parlare con quella fare. Questa è stata scritta nel centro terapeutico di Bad Bachert, Rodengo. Perché quando parli di centro terapeutico nessuno lo conosce, no? Nessuno lo conosce. Poi man mano che parli con le persone, ah sì, c'è stata mia zia, c'è stato mio nonno, c'è stato mio amico, c'è stato questo. È una struttura molto molto grande, molto bella tra l'altro, anche fin troppo, dove avete tutte le vostre comodità, avete animali, avete laboratori, avete palestra, avete piscina, avete di tutto, un hotel a 5 stelle, però è un ambiente protetto. la vita vera è fuori. Io mi ricordo la prima volta che sono sceso da là, credo dopo, non mi ricordo, 4 settimane credo che si possa uscire, non mi ricordo più adesso perché più o meno 4 settimane abbiamo preso il treno. Quando io sono sceso alla stazione di Bolzano avevo gli incubi, diventavo pazzo, un casino, tutti che correvano, tutti che urlavano. Figuriamoci, sto posto è in mezzo alla natura più assoluta, non senti una mosca, sì la senti, però voglio dire, hai la pace più completa. Poi arrivi in città, smonti dal treno e ti ritrovi il caos. A livello di testa, psicologico, veramente è dura. Però adesso, là dentro, in questa struttura, io ho scritto Amaro Destino, che è quella che dà il titolo al libro. Divorzio appena avvenuto, non è che voglio insistere sempre su sto divorzio, però divorzio appena avvenuto, condizioni, lasciamo stare, amaro destino. Trafugare di speranze aliene, trafugare di speranze aliene, terra marcia che ricopre il mio corpo disteso, andirivieni dannati di bibbie ammaestrati, che spezzano ignari fiori ormai appassiti, sudici cani che urinano danzanti su una foto già sbiadita dal tempo, ricordi di vita, emozioni trafitte da spade affilate, emozioni tradite, lacrime di sangue ingenuo nell'incrociarsi di maree ormai stanche, alberi abbattuti tra ripidi pendii di vita, agonizzarsi di insulsi pensieri d'amore, mentre cavalco un'onda di morte viva, susseguirsi rapido di ignorate richieste d'amore, rigurgiti di sangue umano, gorgogli di sangue d'amore, incutono terrore i miei occhi spalancati, incutono tristezza i miei occhi ammalati d'amore, reclamano un rapido declino, e dal profondo di un'anima persa affiora una richiesta di morte. Odio, amore, speranza, emozioni troppo grandi per essere mie. Io qui in questa, mi sembrava una poesia un po' strana, però io qui l'ho scritta immaginandomi in una tomba. In una tomba dove io ripercorro un po' tutti i miei bellissimi ricordi. Ti porta questo l'alcol, ti porta a viaggiare, cioè il filo ritorno sul filo impercettibile che distingue poi vita e morte. Non ci fate più caso. Diventano la stessa identica cosa. Anzi, ripeto, ogni tanto ci speri. È una situazione veramente pessima. Quindi la prevenzione va fatta presto e va fatta bene, soprattutto. È inutile che tu mi spieghi a scuola, no? È venuto Marco, ha fatto una lezione sull'alcol dipendenza, ha detto che fa male perché colpisce qui, magari glielo rappresenti con un bel disegnino, poi arrivano a casa dal genitore, cosa succede? La risposta che ne abbiamo parlato prima da Galateo, no? La risposta classica che dà il genitore è... ma dipende da quanto ne bevi sempre. Quindi crei un ulteriore dubbio nel bambino, perché lui si domanda, ma quanto è questo quanto? ulteriore dubbio, peggiori la situazione, in poche parole. Va bene, adesso io concludo con una poesia, poi se Elio vuole fare una conclusione. Vi garantisco che ho stonato tutto il programma normale che faccio di solito. Sono state lette delle poesie che non ho mai letto durante una serata. E quasi quasi io concludo anche con una che non ho mai letto durante una serata. Sì, mi va. Se avete domande fatele, che poi vado via. Io avrei una domanda. Oh. Allora, dimmi. Cosa potrebbe fare, secondo te, una persona che vive con una persona che è dipendente, che ha il turismo? Cosa potrebbe fare per aiutarla? Perché come hai detto prima, queste persone non si cambiano. No. Innanzitutto cercare di capire la patologia, informarsi. I centri terapeutici non trattano solo i pazienti, ma trattano anche i genitori, i compagni, gli amici degli alcol dipendenti. Fanno dei bellissimi corsi dove spiegano esattamente per filo, per segno, la signora seduta dietro di me, che la conosci molto bene, ci è andata perché non ci capiva più una mazza, perché continuava a dirmi l'alcol ti fa male, beh, gli amici, la pacca sulla spalla, vedrai che passerà. Quale passerà? Fanno dei corsi molto importanti appunto per questi motivi, dove danno tutte le informazioni possibili, Google, qualsiasi altra monata. Però prima di arrivare alla soluzione estrema, o prendere proprio per le orecchie il signorino o la signorina e portarlo in un centro terapeutico, in un ambulatorio. È complicato. Si deve arrivare alla soluzione estrema, che è il divorzio. No, vabbè, ci sono tante cose che si possono fare, prima di arrivare. Allora, cambiamo un attimo lo schema. Ci sono tante cose che si possono fare: informarsi, conoscere la malattia, eventualmente partecipare a dei corsi, accompagnare e parlare. Il dialogo è fondamentale. Lui all'inizio o lei all'inizio non ti darà tanto peso, però se continui a insistere, se tu mi porti dalla psicologa, mi ci porti una volta e poi non partecipi più a nessun tipo di iniziativa, di riunione, così non è un aiuto. L'aiuto è stare vicino, è continuare, è insistere. Se c'è amore, è chiaro che se l'amore non c'è, si arriva con la soluzione. Poi cambia, naturalmente, questo è da sottolineare, cambia, come ho detto prima, se l'alcolista è aggressivo, ti mena, insomma, lì poi insomma cambia la situazione decisamente. Lì è proprio necessario un intervento fatto in maniera diversa. Adesso lascio dire quello che voleva dire Elio un attimo e poi vi leggo questo. No, ma io non voglio rovinare questa empatia che si è creata, però vabbè, perché non voglio parlare di me, no, ma mi ci tirate, nel senso che non so, la metodologia che noi usavamo 40 anni fa è la medesima di oggi, no? Però quando da noi veniva la persona, diceva: mio marito beve, non so cosa fare, no? La domanda che in fondo fa, che è una domanda classica, legittima, fisiologica, noi ci diceva: ma insomma, guardi che la cosa migliore da fare sarebbe quella che certamente quando suo marito è sobrio o sua moglie è sobria, no? Affrontare l'argomento. Perché l'esperienza che poi mi sono portato dietro dopo, pensando alle migliaia di famiglie che ho visto, io insomma, che si separano, c'è sempre la difficoltà, no, in una coppia ad esprimere un disagio, no, a dire che le cose non vanno. E dall'altra c'è la difficoltà a non volerlo vedere, non volerlo ascoltare. E purtroppo non riusciamo a superare le nostre fatiche, io le chiamo così, non sono colpe, le nostre fatiche nel non invece affrontare la tematica, l'argomento quando le cose vanno bene, perché si ha paura quando le cose vanno bene a dire: no, ma guarda che sì, stasera va bene, ma fino a ieri, l'altro ieri, questo anche succedeva allora, no? E si diceva: ma signora, quando è sobrio? Dice: ma non è mai sobrio, come faccio? Ma dico, forse, non so, il sabato mattina, la domenica, quando fate colazione, cioè, no? Cerchi lì, no? Di affrontare, perché non è semplice la tecnica, l'esperienza ce lo insegna, no? L'ultima persona che può ascoltare un partner è quella di ascoltare il proprio partner, che ti dice: guarda che tu hai dei problemi, perché la risposta che tu hai, che ti dirà: no, guarda che i problemi li hai tu, non so, può confermarlo, dottoressa, so, i problemi li hai tu, non li ho io, no? È lì la grande difficoltà. Però l'esperienza ci diceva allora, ma penso ancora di più oggi, perché io sto vedendo delle coppie che magari Kent si invia, no, che dicono: beh, guarda, questi non c'è speranza, è meglio insomma che si separino. Ecco, si è visto che, non voglio essere drammatico, ma se ne esce bene o se ne può uscire bene se si prende in terapia, in colloquio, tutta la famiglia, perché quando c'è una dipendenza è tutta la famiglia che si ammala, non so se mi spiego, ma non è semplice arrivarci. Le battute che facevamo noi allora, non so se le fate ancora voi oggi, ma forse no, si diceva: ma bisognerebbe sperare, signore, che suo marito abbia un piccolo incidente, abbia un qualche cosa, così in qualche modo viene ricoverato, no? Ed è lì magari salta fuori, no? che è un bevitore, così. Oppure c'era a volte la buona volontà di chi frequentava o chi coordinava i gruppi di alcolisti anonimi, no? Che magari avvicinava quella persona, ma non è semplice, no? Ecco, perché a volte, e anche lì recentemente qui è stato presentato un libro, dove, vabbè, è lo stesso, dove magari posso sbagliare, questo è un mio punto di vista, dove io voglio vedere l'alcolismo come un sintomo di un qualcosa che in quel sistema familiare non funzionava. Forse sbaglio tutto, ma questo è un mio punto di vista. Vabbè, comunque non è semplice e ci vuole tanta pazienza, perché la risposta è questa: è lei che ha i problemi, io non ne ho, mi scuso di questa disserzione. Concordo sul fatto di intervenire finché la persona è lucida, no? Anche perché soprattutto all'inizio dell'alcol dipendenza non sono pochi i momenti dove non siete lucidi, sono tanti, perché avete un fisico, un corpo che ancora risponde. Quindi ora che voi arrivate, andate al bar alle 8, ora che voi arrivate ad una condizione che non percepite più bene, diciamo, quello che vi gira intorno nella vita, rischiate di arrivare a mezzogiorno, perché il corpo, man mano che andate avanti, soprattutto rispetto all'inizio quando regge ancora bene, Ma voi prima che veramente perdete i sensi ce ne vuole, eh? Io tante volte andavo al bar alle 8 della mattina, poi mi sedevo fuori, nella panchina fuori, a bermi una birra tranquilla al sole, e io sentivo tutti i commenti della gente che passava, no? Gente che si spostava con la carrozzina, come se fossi il diavolo. Io ero lucido, i commenti li percepivo, e come? No, l'alcolizzato DM l'ho sentito, ma io ero lucido. Ne passano di ore prima che vi ubriacate, eh? Ripeto, finché il corpo vi regge. Poi, quando il corpo comincia a fare le bizze, cambia la musica. Se Marco permetti, quello che dice Marco è vero, no? Perché una delle paure a volte, no, che ha paure, un alibi che ha una dipendenza è quella, forse la dottoressa può annuire o non dire nulla, va bene, quello che vuole, è quella di dire: ma se vado lì tutti sanno che io bevo, quando tutto il paese comunque lo sa, no? Non so se mi spiego, è così, no? Ma sono tutti alibi, no? Che ci si crea. Scusa, è vero, Marco. È vero. Ecco perché l'alcolismo è un amore che è stato il mio primo amore, che non si dimentica. È vero, i momenti in cui siete lucidi, sembrerà strano, ma soprattutto all'inizio sono tanti. Quindi la possibilità di parlare con il vostro partner c'è, e come se c'è. Finiamo con una poesia. La finisco con questa, perché da qui partirà il secondo libro. È una poesia che qualcuno stava leggendo o aveva appena finito di leggere in una giornata particolare, bellissima per me. Si chiama Antologia di una lacrima. Le lacrime, ripeto, sono tante. Questa è stata scritta nell'autunno 2017, esattamente nel centro terapeutico che era qui adesso. Antologia di una lacrima. Leggera accanto a me. Quanto tempo trascorso insieme, poggiati su un cuscino color lilla, quante avventure, quanti ricordi insieme. Più volte mi hai fatto visita nelle mie notti insonne, notti dove il dolore mi assaliva e non mi restava che piangere. Una compagna, una confidente, uno sfogo. Quante sensazioni possono nascondersi dentro una lacrima? Scendevi educata lungo il mio viso, mai invadente, quasi a consolare questo mio viso stanco. Notte autunnale, la stanza è stretta. Accanto a me compagni di viaggio, tutti alla ricerca di un qualcosa e di un qualcuno, alla ricerca di una strada che sia tutta nostra, dove poter tornare a vivere nella normalità. Dovessi trovarla, sono sicuro che nelle notti più buie verrai a trovarmi, ti poggerai a fianco a me, perché una lacrima ha sempre una risposta. Grazie, non so chi l'ha detto, ma grazie. Dal cuscino color lilla ripartirà il secondo libro, che sarà un po' più leggero di questo, perché sennò mi arresto. Verrà scritto a quattro mani il prossimo libro, con una poetessa che ne ha già fatti 4 o 5. Io farò la parte del cattivo, tratterò di problemi sociali e ritornerò in parte su questo argomento, e poi ci sarà la fase un po' più delicata, sarà un libro altalena. Grazie, adesso io sarò qui a disposizione, se avete ancora domande fatele pure, vi rispondo volentieri, sarò a disposizione eventualmente se qualcuno vuole acquistare il libro. Grazie. Allora. minuti, dai. A me piacerebbe che in voi fosse scaturita questa emozione che Marco ha dato a me, ma che soprattutto mi ha dato anche il libro, no? Perciò è ovvio che vi esorto a leggere il libro, no? Con la bella cosa che avete ascoltato anche Marco. E allora, se Marco è d'accordo, a me piacerebbe che uscissimo tutti di qua con un pensiero di ottimismo. Pensiero di ottimismo e non di rassegnazione, un pensiero di ottimismo e di speranza. E proprio per questo, perché avevo in mente di dire questo, scusate il gioco di parole, sempre alla ricerca, insomma, dei miei iscritti e quant'altro, dei miei iscritti, degli scritti che leggo, sull'ottimismo vi leggerei quattro righe che scrisse Dietrich Bonhoeffer, che penso che molti sapete chi era un teologo protestante tedesco che muore, ahimè, nel 45, che insomma c'era quasi alla fine, insomma, dei conflitti, e lui ha scritto alcune considerazioni proprio sull'ottimismo, e per dirlo lui, insomma, ce ne vuole, no? E dice: nessuno deve disprezzare l'ottimismo inteso come volontà di futuro, anche quando dovesse condurre 100 volte all'errore, perché questo è la salute della vita. Ecco, e adesso potete fare le domande a Marco. E qui abbiamo una ventina di minuti. Nessuna domanda, è impossibile. Perché hai scelto di scrivere poesia? Sì. Sì. Perché la poesia? Perché io ho sempre scritto, noi ci conosciamo ormai da qualche anno, e ho sempre scritto poesie. E trovo, personalmente, poi ognuno, che la poesia sia un modo perfetto per sintetizzare degli argomenti. Puoi, utilizzando determinate parole, anche pungendo a volte, no? Sull'argomento, però riesci in poche parole a trasmettere. Nel romanzo avrei potuto scrivere tranquillamente un romanzo, però andavo a rischio di ripetermi, perché è un argomento particolare, sicuramente da trattare, però io riesco meglio a sintetizzarlo come poesia. Per esempio, faccio un esempio, adesso usciamo un attimo dal tema. Io descrivo nel libro in tanti modi la donna, no? Tu l'hai letto, la descrivo come amante, come prostituta, come regina, come dipinto. Forse nel romanzo non ci sarei riuscito. Solo per questo. Cioè, la mia definizione di donna va sintetizzato. Per me è una figura d'eccellenza, no? Una statua, anche, l'ho detto. È una figura d'eccellenza che mi ha procurato non pochi problemi, Non pochi problemi, però per me la figura della donna è l'eccellenza della poesia. Solo per questo. Ti è piaciuta? Sì, no, sto pensando che poi... Poesia è femminile. Infatti, giusto per dare una ma proprio brevissima anticipazione, dove ripartiremo da quel famoso cuscino color lilla, lì parto subito con un tema, con una poesia, di nuovo vado sul dipinto. È proprio una cosa che mi viene naturale, no? Sono fatto così. Però, prego. Volevo capire se hai detto prima della fragilità, e trovo che un uomo che poi trova il coraggio di parlare delle lacrime che, com'è che si dicono in italiano, sono madrelingua tedesca, che è avversato, sia insomma una grande forza nella fragilità, poterne parlare, perché arrivare a piangere dà sollievo. Volevo chiederti quanto lo scrivere è diventato un aiuto per superare, o anche insomma hai scritto anche quando eri sotto effetto di alcol, oppure eri sempre stato... No, in molte poesie sono stato anche lucido. No, soprattutto alcune che proprio sono state scritte decisamente dopo. Sono state scritte quando io avevo già smesso, magari da un paio d'anni, che sono stato colpito da un lutto, da una delusione amorosa, da un qualsiasi cosa. Però tante le ho scritte proprio in piena bevitura, no? Però sono venute bene anche queste. La scrittura, guardate, io l'ho sempre fatta fin da quando avevo 16 anni, forse anche prima, sono sempre stato spinto anche dal centro terapeutico a cercare di utilizzare la scrittura come metodo di sfogo, cioè per esternare anche le mie problematiche. Fino a qualche anno fa non ci credevo, però vedevo che gli effetti c'erano, non è che non si notano gli effetti, e alla fine questa scelta è stata effettivamente la scelta giusta. Mi dispiace solo che ho dovuto, purtroppo, tante poesie che avevo scritto, molto belle tra l'altro, in vari centri terapeutici, perché ripeto ne ho fatti 3, e siano andate perse. Capita. Io ci sono mesi, che passo mesi senza scrivere assolutamente nulla. Poi è chiaro, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro motivo, vuoi per fragilità anche, no? Perché a volte la fragilità, adesso però avendo raggiunto una consapevolezza, che è quella che è fondamentale, no? Avendo della fragilità ne puoi fare un'arma, un modo per riuscire a trasmettere. Adesso mi sono perso quello che volevo concludere, la frase. Ma ti aiuto io, Marco, se posso, per rispondere alla dottoressa che quando io ho introdotto Marco questa sera lei non c'era, no? Io mi sono permesso di dire che è difficilissimo definirsi uomini o donne libere o liberi. Marco, secondo me, con questo suo scritto, con queste sue esternazioni, secondo me, non credo di non sbagliarmi, ha raggiunto l'essere libero. Perché per essere liberi tu devi essere, come ho detto prima, devi essere, avere consapevolezza, creatività e responsabilità. E secondo me forse questo, ma per tutti magari, per chi scrive della propria vita o del proprio vissuto, riuscire ad avere il coraggio delle proprie lacrime, delle proprie sconfitte, delle proprie delusioni, è una grande liberazione, ma è una liberazione che ti fa bene. E poi raccontiamolo come aneddoto del perché quel meraviglioso centro suo è in un luogo, è in un luogo stupendo. Quando io avevamo fondato il centro recupero alcolisti, eravamo andato a visitarlo perché volevamo prenderlo noi, insomma, come centro, no? Ero andato su con Sauro, vabbè, lo stesso. Lì, e così la diciamo tutta, questo luogo era una residenza estiva dei preti di Padova, delle diocesi. E voi sapete, insomma, che i preti, il clero, si trova in posti bellissimi. Tanto è vero che non so se Marco se lo ricorda. C'erano terme anche. Avevano costruito un piccolo gabinetto dove vicino c'era la statua, non so se c'è ancora, di Papa Giovanni XXIII. Perché lui allora era il patriarca di Venezia. Tutti sapete chi era Papa Giovanni XXIII. Perché vedo persone non più giovanissime, però insomma dai, avremmo sentito parlare, il cosiddetto il Papa Buono, no? Ecco, andavano a passare delle vacanze, e credetemi, è un luogo di pace, un luogo meraviglioso, insomma. Vabbè. Sì, non andateci, no. Non andateci in pieno inverno, perché vi fanno spalare la neve. Mi è venuto in mente quello che volevo dire, nel frattempo, grazie. Parlavo delle mie pause, no? Prima di riuscire poi a riscrivere, che mi parta qualche cellula del cervello. E ieri sera, siccome ne abbiamo parlato io e te di questa cosa, cos'era il titolo? Quello che volevi? Lei voleva Destino d'amore come titolo del libro, no? No, ho augurato il prossimo libro. Esatto. Allora, ieri sera, per un episodio che non è giusto spiegare, mi bazzicava in testa da un po' di tempo, era lì che girava, non riuscivo a trovare una fine, ho finito la poesia. Oh. La poesia, l'ho finita. Almeno la poesia, il titolo non posso. Te l'ho detto, però ieri sera sono riuscito a finire finalmente questa poesia. Ok, va bene. È molto interessante, diciamo, nel mio stile. Allora ringraziamo innanzitutto voi della vostra attenzione, soprattutto attenzione e pazienza. E ringraziamo naturalmente Marco io direi una cosa, veramente proprio per il suo coraggio. Allora, incoraggiamolo ancora di più, no? A proseguire in questo suo cammino. Grazie. Grazie. Grazie. Questo l'ho ricevuto stasera, mi faceva piacere, poi ho una cosa da darti. E no, vi ringrazio tutti, ringrazio in particolare il centro Hands in assoluto, ringrazio Elio, li farò brevi, ringrazio Elio Cirimbelli che io e lui, non ci siamo mai visti per il libro, in altre occasioni sì, ma per il libro non ne abbiamo mai parlato. E ringrazio di cuore il centro Trevi. Io ho a che fare con tantissime biblioteche, tantissime, però la professionalità che io ho visto qua è impagabile, non perché siete qua, Alessia, ma proprio è impagabile. Sono bastati un incontro e uno che l'ho chiesto io, che forse non era nemmeno necessario, ed è stata organizzata questa serata, una professionalità supersonica, davvero grazie. Tutto lo staff, certo, tutto lo staff.